Ci sono quei giorni che proprio non ti aspetti mai, quelle volte che sai che non te lo meriti. Ore stanche che dentro il mondo ti trascinano, vorresti uscirne fuori ma scappare non ti lasciano proprio mai. La vita è fatta così, alti, bassi e realtà. Quando pensi di essere felice cadi. La vita mette alla prova giorno per giorno e tu lo sai. Spesso decidi di lasciarti andare, accettare senza più lottare. Giornata bellissima solo con me. A non pensare a niente e ridere davanti a un caffè. Bere birra e vino finché ce n'è. E magari qualche sigaretta dopo il caffè. Pensare ai sogni da portare a termine e anche a quelli che non si realizzeranno mai. La vita però non è proprio giusta, sai. Non prendi quasi mai tutto quello che dai. Volare più in alto è bello, si sa. Godere in pieno della libertà, ridere, ballare, suonare, cantare, dimenticare, spremere la vita come fosse un'arancia, guardare negli occhi una donna bellissima. E quasi sempre ti dice di sì. Sprofondare nel senso del mondo e dell'immensità. Non vivere solo a metà, volare nel cielo come un'aquila va. Giornata bellissima solo con me. A non pensare a niente e ridere davanti a un caffè, bere birra e vino finché ce n'è, e magari qualche sigaretta dopo il caffè. Pensare ai sogni da portare a termine e anche quelli che non si realizzeranno mai. La vita però non è proprio giusta, sai. Non prendi quasi mai tutto quello che dai.